appunto info. Questo naturalmente per chi desidera usare il computer per connettersi con questa realtà autogestita ormai da lontano 1977. Appunto, su ondarossa.info si possono trovare anche le informazioni per la nostra campagna di radioabbonamento 2021. 30 euro per 1000 ascoltatori, ci sono le varie modalità di adesione con carta di credito, bonifico, eccetera. Serie di saluti doverosa, Maia in Sardegna, Nicola Locci anche lui, musicista attivissimo come Stigmate ed Hexagonal. Un saluto a Roger Kemper della Formaldehyde Records, non solo. Sirena Velena di Cronaca Nera, il medico della peste. Al quale se mi ascolta dico che il suo CD va bene, si sente. Antonio Zoviet, omicidio da Firenze. E poi Tabula Rasa, Endri Vieni di Attualità Nera, Cristiano Bocci di Chemical Resistance e Duo Serpe, Dario Righi di Progetto No Name, Marco Pierroma. A Bergamo, onnipresente, Francesco Cornello. Arianna Degni Lombardo e Flavio Derbecante di Noise Cluster. Like Awake, pezzo di storia ambient, Laura Spirit Crusher in nelle parti di Frosinone. Mentre noi invece andiamo un po' ad analizzare questa compilation che riguarda Howard Phillips Lovecraft. Una compilation che si chiama The Blackstone Music for Lovecraftian Summonings. Una compilation ideata da Raffaele Pezzella attraverso la sua 8 Tower Records. Quindi tutti gli artisti che sono stati chiamati in questione dedicano un brano, usando magari anche proprio un titolo di qualche suo racconto, in queste 14 tracce, dai climi ovviamente di riferimento alle storie horror, fantasy, eccetera eccetera. Uno scrittore che è stato antesignano di molta cultura scritta americana per quanto riguarda questi argomenti. Andiamo in Iran con Sola Tipur Reza, che ci fa ascoltare The Resurrection. E poi gli inglesi The Space Chamber Music con Nocturne von Eric Zahn. Rezza Solati pur, uno delle eminenze grigie della scena dark ambient iraniana, lui viene proprio da Teheran e già in passato lo abbiamo incontrato nelle numerose compilation dedicate anche all'Iran e non solo. Ottimi i droni sepolcrale di questo artista, che ha un interessantissimo profilo Bandcamp. Da Bristol invece questi Dead Space Chamber Music. Più contorte le soluzioni sonore adottate da costoro. A Nocturne for Eric Zann. Thank you. anche per questa sera due estratti da The Blackstone Music for Lovecraftian Summonings. Dall'Iran, ed è giusta anche l'osservazione, come la scena iraniana non abbia rinunciato alla cultura, per certi aspetti anche quella religiosa di quelle parti, mettendola come studio etnico nelle atmosfere dark ambient, come nel caso di Solatipur Reza, più vicino a tensione elettroacustica, e invece la scelta musicale di Dead Space Chamber Music con il Nocturne for Eric Zan. Peraltro presto ci ascolteremo anche la Cristiano Bocci, che partecipa nel trio Casottini Barbeiro in The Hunter of the Dark, lo ascolteremo più in là. E intanto saluto Jean-Claude Bertot dalla Val d'Aosta. La versione più sepolcrale dell'ambient viene anche interpretata dal prossimo artista scandinavo, ossia Inan. Che molti anni fa, esattamente nel 1992, con una ristampa nel 2016, stampò questo doppio dal nome Œuvre complète Tom, 16 movimenti. E noi ci ascoltiamo la prima traccia del secondo CD, ossia Sick From My Body. Ricordiamo che dietro in Anna c'è Mikael Stravostrand. È un po' che stiamo dedicando spazio a Michael Stravostand, ossia Inanna. Ricordiamo ancora una volta ex Archon Satan insieme a Thomas Patterson, che poi andò a formare gli Ordo Rosario Esequilibrio, loro più riconducibili al neofolk in molti loro frangenti. Inanna, ricordiamo, preso in, tra virgolette, in prestito dalla cultura dei Sumeri, ricordiamo, dea della fertilità, della bellezza e dell'amore, poi assimilata anche alla babilonese Ishtar. Ed è bello effettivamente, come viene sottolineato, come anche un artista svedese abbia e ci doni anche la possibilità di andarci un po' a rivedere questi aspetti della cultura antica. Sacrale e a suo modo esoterico, dunque, Inanna. Il tutto da Œuvre Complétée Tome, in origine del 1992, ristampato poi più recentemente nel 2016. Teniamo conto che questo artista, diciamo, è fondamentalmente quasi scomparso dalle scene. L'altra volta Becuzzi ci nominava gli Men in Slippers, un suo progetto minimal techno, gli Uomini in Mutande, vera e propria dimostrazione di nera ironia. Ironico sicuramente non lo è invece il buon Eddie Newton, mente eccelsa dei Cloud DVA e anche di Antigroup Corporation. E come di Antigroup è uscito il recentissimo Organ Needles, concept album con sfondo scientifico, come spesso accade a questo artista inglese. Lo ricordiamo pure nella primissima formazione di Human League, quando costoro si chiamavano The Future. A Sheffield tutto ciò, Sheffield, città inglese estremamente creativa negli ultimi 30-40 anni. Tornando a Organ Needles, ci ascoltiamo Dead Machine e Al-Jaber of Desire. Наряду с такими относительно невинными, наряду с такими относительно невинными, наряду с такими относительно невинными, наряду с такими относительно невинными. Voices of unknown origin appearing on radio frequencies were first noticed in Scandinavia by the military in the 30s and were put down at the time to secret Nazi transmitters. But the voices spoke in unknown and mixed tongues, and after the war, no records of secret Nazi transmissions ever came to light. Not until 1959 that a Russian-born, Swedish citizen, radio and TV producer, and filmmaker, Friedrich Jürgensen, noticed intrusions on tape and commenced his own systematic study. Oh. The investigator probed too closely as to their source. It seemed as though they broke contact and left him stranded. This is known as the decline effect in psychical research. It is as though there are barriers and constraints against full contact and confrontation. Наряду с такими относительно невинными, наряду с такими относительно невинными, наряду с такими относительно невинными, наряду с такими относительно невинными. The voices may be a mutant development of some remote corner of the subconscious mind, or a transient byproduct of the electromagnetic pollution which now rings our planet and presses outward into space. Or then again, the voices may herald the first tentative contact with intelligences from a parallel world, who, occasionally, when conditions are right and at the interface between two separate realities, reach out to us, manipulating electronic apparatus and energies in ways at present unknown to us. Thank you. riesce ad essere misterico e cibernetico allo stesso modo. The Antigroup di Eddie Newton, da questo Organ Needles, eccellente prova dopo molti anni di silenzio. Saluto Is It Wall in quel di Milano, Wurnus Island, grossa realtà industrial da Asti. Una delle personalità più forti e interessanti della scena sperimentale da molti, molti, molti anni a questa parte. Vado anche a salutare Allen Key Trimble di Coagulant, che peraltro ha partecipato in questo album in una traccia come ospite in Organ Needles. Altro gruppo, progetto che ha macinato veramente in 40 anni, è sicuramente Esplendor Geometrico, che è andato proprio a festeggiare il 40esimo anno di attività con un ottimo lavoro, un doppio, uscito da pochissimo dal nome 40 Años Nos Illuminan, 40 anni che hanno illuminato, un po' autocelebrativo, ma tant'è. Personalmente ho sempre apprezzato l'opera anche abbastanza sottotraccia di Esplendor Geometrico, credo uno dei gruppi più sottovalutati dalla stampa cosiddetta specializzata, ma anche da internet eccetera. Un gruppo che nel 2020 ha composto ben due lavori, passati soprattutto Cinetica dell'inizio 2020 veramente veramente sotto silenzio, ma noi ripareremo presto. Dal primo CD di questo 40 Años Nos Illuminan, volume 1, ci ascoltiamo Sincro e poi Buenos Dias. Yeah. пистолет. Он перезарядится. Fratelli e sorelle, buongiorno. Buongiorno a tutti. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Buongiorno. buongiorno a tutti. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Buongiorno a tutti. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Revolución sí, golpe militar no. Alla grande, 40 años nos illuminan, volume 1, quindi ci sono due volumi usciti per i 40 anni di esistenza di Esplendor Geometrico, attualmente con Arturo Lanza e Saverio Evangelista, quest'ultimo proprio qui di Roma, tra i personaggi più misteriosi della scena industrial. Inavvicinabile. Ci siamo ascoltati Sincro e Buenos Dias dal sapore vagamente ecumenico, in italiano peraltro. Buenos Dias, buongiorno a tutti, come recitava la voce rassicurante. Un saluto al Fulvio Biondo di Solar Lodge, Antonella dalla Sicilia, Valentina qui a Roma. Anche i gatti ci ascoltano, gatti sparsi qua e là nelle case di chi sta ascoltando Aurora, sparsi nell'Italia tutta, e vi ringrazio per questo. Altro grosso calibro. Il 1 aprile 1998 moriva Rozzy Williams, come di molti di voi sapranno, fondatore dei Christian Death e non solo. Noi questa sera ce l'ascoltiamo come Premature Ejaculation, un album del 1992 dal nome Anesthesia, che si apriva con questa malsana Salvation Deliverance Prayer for the Sick. infections, there is a spectrum of response by the person who's infected. Just as the person.